Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Alcuni giorni fa ricorderete che abbiamo avuto il nostro ospite, il presidente dell'associazione Antiracket di Trapani, perché abbiamo parlato di cose importanti che stanno accadendo in quella provincia, del livello che si alza di resistenza fisica anche alla pervasività delle mafie. La Sicilia è una regione, non mi stancherò mai di dirlo, meravigliosa da tutti i punti di vista, anche e soprattutto ora da quello della resistenza. I fronti sono migliaia di resistenza a Cosa Nostra. Ahimè, purtroppo la forza di Cosa Nostra è tale da riuscire spesso a conquistare le pagine dei giornali più delle buone azioni. Ma noi siamo qui per raccontare queste buone azioni. Allora c'è un'immagine bellissima di cui oggi voglio parlare con l'ospite che adesso vi presento. Un'immagine di una marea di pesciolini che diventano un pesce enorme che si pappano una piovra. Ovviamente va da sé che la piovra è l'immagine di Cosa Nostra e dei suoi tentacoli in Sicilia, ma non soltanto in Sicilia. E i pesciolini adesso lo chiediamo. Ma a chi lo chiediamo? A Davide Durante, che è il presidente di Confindustria Trapani. Buongiorno Durante. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Chi sono i pesciolini, Durante? I pesciolini siamo tutti quelli che facciamo la professione di imprenditori in una terra difficile e che comunque abbiamo già cominciato da qualche anno sempre di più ad alzare il tiro rispetto alla, come dicevo, a questa forma di criminalità che in qualche maniera poi cerca di conquistare anche mercati, soprattutto alle nostre parti. Certamente, ecco, mi pare di capire, ma lei mi corregga se sbaglio, che dalle vostre parti in provincia di Trapani la collaborazione con la magistratura e le forze dell'ordine sia un modello, no? Poi lì c'è un funzionario dello Stato, Linares, che è qualcosa di straordinario, anche perché nel vostro territorio c'è una tale famiglia Denaro, Messina Denaro, che la fa un po' da padrone. Dico bene o dico male quando dico che la collaborazione è a buon livello? Dice benissimo, abbiamo certamente anche lì contribuito tantissimo con incontri continui a cambiare la rotta e quindi adesso oggettivamente le forme di collaborazione, di incontri, di scambio di informazioni sono sempre più, come dire, continue e questo agevola il lavoro di tutti. Certo, ecco, uno dei must, diciamo così, di Confindustria Sicilia, ma Confindustria Nazionale, degli imprenditori e poi l'associazione della gruppa, ovviamente il comune sentire degli imprenditori, è quello di dire cacciamo chi non denuncia il pizzo, cacciamo chi non è degno di stare con noi. Ecco, la situazione nel trapanese qual è? Avete preso già delle misure drastiche, avete delle rogatorie, delle istruttorie in corso, oppure invece, come dire, la collaborazione è talmente ampia che non avete bisogno? No, guardi, noi a Trapani abbiamo semplicemente messo in campo tutta una serie di accorgimenti per, ripeto il termine, alzare il tiro, nel senso che immediatamente, una volta assunte le nuove linee che ci siamo tutti dati in quel famoso direttivo del settembre 2007 in Sicilia, che valeva chiaramente per tutte le territorie siciliane, abbiamo fatto in modo che ogni impresa, per continuare a essere associata o per divenire socia di Confindustria, dovesse avere i requisiti. Il primo è non essere nell'elenco dei cattivi, quindi se ci presentavano una certificazione antimafia, diciamo, in regola, e allora potevano continuare a stare con noi. È chiaro che questa è stata una decisione non certamente popolare, ma la cosa spettacolare, diciamo, è che poi alla fine, una volta assunta questa decisione, la quasi totalità della base l'ha accolta, ha aderito all'iniziativa e quindi questo ormai è il nostro leitmotiv, certo, continuo. Poi da lì siamo passati alle costituzioni di parte civile nei processi. Ecco, benissimo, ecco, mi parli di questo. Ripeto, da lì siamo passati poi immediatamente dopo alle costituzioni di parte civile nei processi dove imprenditori fossero o vittime o peggio ancora collusi con le organizzazioni criminali. E nel giro di 3-4 anni abbiamo in cantiere tanti procedimenti, già abbiamo avuto una serie di sentenze positive e poi soprattutto, oltre a questo, abbiamo dato luogo, assieme a tutte le altre organizzazioni di categoria del territorio e quindi della provincia, alla costruzione dell'associazione anti-racket Trapani, cui lei faceva riferimento, che estende tutta la sua attività in tutta la provincia, laddove in altre realtà non esistono queste associazioni anti-racket costituite o comunque funzionanti, e che ha portato al significativo risultato di qualche settimana fa della sentenza al processo Gricoli a Marsala. Assolutamente, di cui abbiamo parlato. La ringrazio, Presidente Durante, Presidente di Confindustria Trapani, per il suo intervento. Ovviamente le auguro buon lavoro a lei e a tutti gli associati. Ricordo la nostra mail alla quale segnalare le storie di resistenza alla mafia e anche le storie di, purtroppo invece, di mafia da denunciare. La nostra mail è sottotiro@radio24.it. Grazie in regia Filippo Aureggi, in studio a Laura Fagina e Roberto Garullo. Vi auguro una buona giornata.